voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. La meccanica da export attenta al welfare. Di Anna Marino. Nuova puntata della serie speciale di Voci di Impresa in collaborazione con Sharing Italy, l'iniziativa di Intesa San Paolo che ha riunito a Torino 150 imprese sui temi dello sviluppo economico e imprenditoriale. Le prime due storie che vi raccontiamo oggi arrivano dal Veneto e dall'Emilia-Romagna, territori della meccanica di precisione e della termomeccanica, e hanno in comune anche l'attenzione verso le risorse umane. La terza storia punta sul welfare come elemento chiave dei territori e delle aziende. La prima case history è quella di ICI Caldai S.p.A., nata nel 1958. È un'azienda nel settore del riscaldamento che produce e vende in Italia ed Europa impianti per la generazione di calore, sia in ambito industriale sia residenziale. Ci racconta il legame dell'azienda con il territorio la seconda generazione al femminile, Emanuela Lucchini. La nostra azienda è nata negli anni 60 ed è legata al territorio nel senso che le aziende del settore termomeccanico sono nate nel territorio veronese. La nostra azienda è partita producendo caldaie residenziali, industriali. Si sta evolvendo perché sta lavorando anche sulle celle a combustibile per la cogenerazione residenziale e quindi per la produzione anche di energia elettrica oltre che acqua calda. Noi abbiamo fatto parte del distretto della termomeccanica e per noi il territorio ha voluto dire collaborare con artigiani, aziende più o meno grandi e anche adesso con la scuola. Ci sono tutti questi progetti per connettere la scuola all'impresa per la possibilità di rendere più vicino il mondo della scuola al mondo della tecnologia e del lavoro. Durante la crisi, l'azienda ha scelto di puntare su efficienza energetica, sostenibilità ambientale e risparmio dei costi per gli utilizzatori, soprattutto in funzione dell'export. Ancora Emanuela Lucchini, amministratore delegato dell'azienda. Nel nostro settore quello che ha aggravato di più è stato il fermo della parte residenziale perché in Europa si costruisce sempre meno, bisogna andare altrove e quindi la battuta d'arresto c'è stata. Se siamo stati abituati dagli anni 2000 e per 10 anni ad una crescita continua anche a 2 cifre, abbiamo visto un rallentamento. Questo ha voluto dire puntare su qualcosa a maggior valore aggiunto e quindi la possibilità di essere versatili, sartoriali e proporre soluzioni sempre più adeguate al cliente ha voluto dire aumentare la marginalità a scapito magari anche dei volumi e adesso l'esigenza comunque di crescere e grazie ai nuovi paesi che hanno bisogno di prodotti a minor impatto. Già da qualche anno più della metà dei nostri ricavi sono all'estero e poi ci sono paesi che hanno bisogno di tecnologie anche italiane perché nel nostro settore la Germania e l'Italia la fanno da padroni e per esempio negli Stati Uniti siamo visti come la tecnologia più evoluta e non solo i cinesi che vanno in giro con la mascherina per le strade hanno bisogno delle nostre tecnologie. Importante, secondo Emanuela Lucchini, è stato attingere ai fondi europei e puntare sulla formazione delle risorse umane. Noi abbiamo sempre reinvestito gli utili, è un po' la tradizione e la storia della nostra azienda e continueremo a farlo perché abbiamo voglia di fare ricerca. È stato molto utile l'ingresso nei progetti europei e in tempi in cui gli italiani raramente partecipavano all'Europa e questo ha voluto dire una ventata non solo di innovazione ma anche di capacità di collaborare con istituti di ricerca, con università, con altre aziende e internazionalizzare anche l'azienda. Infatti il nostro centro ricerche è quasi l'anima non solo della nostra azienda ma anche di vari ambiti territoriali piuttosto che continuano ad arrivare da noi ricercatori di ogni parte d'Europa. Rende la nostra azienda più aperta al mondo e all'innovazione, quindi sicuramente questo è stato importante sia da un punto di vista di possibilità finanziarie per fare ricerca a lungo termine, sia di apertura appunto alla ricerca non solo aziendale ma diciamo di università e enti di ricerca. È importante curare la formazione anche delle persone che sono in azienda. Certo è che quando si parla di formazione ormai è sempre di più la possibilità di diffondere all'interno dell'azienda una collaborazione e quindi diffondere la cultura in azienda e quindi anche il welfare. La seconda storia appartiene sempre al settore della meccanica, ma in un altro territorio, quello dell'Emilia-Romagna. Metal Castello viene fondata negli anni 50 su iniziativa di due imprenditori emiliani e produceva inizialmente organi di trasmissione per trattori agricoli. Importante, secondo l'amministratore delegato Stefano Scutigliani, è la rete tra le imprese del territorio. L'azienda che dirigo è nata nel 1952, quindi sono 65 anni quest'anno, e si trova in un posto splendido a metà strada tra Bologna e Firenze, sull'Appennino tosco-emiliano. E c'è chi dice che le zone montagnose sono svantaggiate, secondo me si sbaglia di grosso, è un paradiso terrestre. Non siamo ovviamente da soli, ci sono molte altre aziende famose, c'è una rete perché assieme a noi c'è una filiera di fornitori che operano, lavoriamo nel comparto dei componenti per automotive, e quindi ingranaggi che vanno negli alberi di trasmissioni, automobili, anche trattori, movimento terre agricole. Diciamo l'azienda diciamo ha 65 anni, però si è rinnovata decine di volte per poter essere sempre all'avanguardia e poter servire i clienti internazionali. Naturalmente la crisi, quella partita dal 2008, ha colpito anche la Metal Castello, ma il momento di difficoltà è stato anche occasione per ripartire con nuovo slancio, perché i vertici hanno deciso come strategia di puntare sull'innovazione, come spiega ancora Stefano Scutigliani. Quando si dice alle volte andare in crisi fa bene, perché abbiamo fatto i conti con noi stessi, abbiamo capito quali erano i punti di debolezza e abbiamo immediatamente preso delle azioni, quindi diciamo ci siamo modernizzati e ovviamente uscire dalla crisi vuol dire innovare, cioè se avessimo potuto prevederla questa crisi ci saremmo innovati prima, comunque pazienza, ci siamo innovati e credo che quest'anno abbiamo fatto il record di utile di tutti i tempi. Come fatturato siamo intorno a 50 milioni con un utile dopo le imposte del 10% e noi punteremmo almeno ad un incremento a doppia cifra nei prossimi 5 anni. Anche l'export per Metal Castello è stata una chiave di uscita dalla crisi, con l'espansione sui mercati europei, asiatici e soprattutto del Nord America, come racconta l'amministratore delegato. L'80% del nostro prodotto va all'estero. Noi abbiamo magazzini sparsi sui quattro continenti, quindi sicuramente esistono delle interconnessioni. Ma soprattutto diciamo abbiamo anche la possibilità di far leva su sister company, che nella fattispecie dirigo anche in India e in Messico, che ci consentono di poter al cliente multinazionale che chiede soluzioni globali di poter dare soluzioni globali, perché siamo presenti in tutti i continenti, quindi questo è sicuramente una chiave di successo. Assieme a questo ovviamente innovazione di processo e di prodotto per automatizzare e rendere il livello di qualità superiore, perché poi alla fine non vincono chi va sul podio ma vince il migliore sempre. Tra i punti di forza dell'azienda, secondo Stefano Scutigliani, ci sono il territorio e il personale. Quando qualcuno mi propone delle nuove commesse, dei nuovi prodotti e dice ma si potrebbe creare un nuovo stabilimento, si potrebbe andare a Milano, no. Rimaniamo a Porretta. Allora, ci sono due motivi. Il primo perché, ripeto, è un territorio meraviglioso e che nessuno... Ma il secondo, non indifferente, è che il know-how è lì. Quindi non è che il prodotto si fa solo comprando dei macchinari o assumendo, ci vogliono degli uomini ci vogliono degli uomini che abbiano un'esperienza pluriennale. La terza storia che vi raccontiamo oggi punta su soluzioni di welfare fatte su misura per ogni territorio. Social Fair è il primo centro per l'innovazione sociale in Italia. Si occupa di welfare e piani di welfare aziendali, come spiega l'amministratore delegato Laura Orestano. La nostra impresa Social Fair è nato come primo centro dell'innovazione sociale a Torino nel 2013. Finora noi abbiamo accelerato 24 startup a impatto sociale, sono passate quest'anno da noi circa 5.000 persone tra moduli di accelerazione di conoscenza, come dicevo, e moduli invece per le startup. Abbiamo un fatturato di una piccola impresa, siamo soltanto 8 persone, però in tutta Italia, da tutta Italia ci chiedono di replicare il modello. Questa è una cosa molto importante, la replicabilità specializzata nel contesto territoriale. Welfare su misura o innovazione sociale applicata a dei settori, a dei bisogni, a delle sfide che possono essere territoriali, ma che in effetti poi si trovano anche al di là della territorialità. Questo è un esempio delle ricadute di un piano di welfare secondo Laura Orestano di Social Fair. Per esempio, una cosa molto interessante sulla quale stiamo lavorando è quella di creare una sorta di nuovo di banca di comunità, banca nel senso di salvadanaio di comunità, no? Ogni comunità, che sia la comunità dell'ufficio, che sia la comunità che fa la spesa, che sia la comunità scolastica, può in effetti in ogni transazione mettere da parte un piccolo quid. Questo quid viene a convergere, diciamo, in quel salvadanaio di comunità che poi viene invece adottato per sviluppare dei progetti che sono rilevanti per la comunità. Bene, questo si può fare. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione estesa, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito radio24.it, cliccando sulla pagina programma Voci di impresa. E curiosando nella sezione Extra, a cura di Anna Marino, potete scrivere i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di impresa è anche Voci di piccola impresa. Su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di piccola impresa. A domenica prossima!